Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. To get a line on you, my sweet honey lover. Rubber jewelry jangling down the street, making bloodshot eyes at every woman that you meet. I could not seem to get a high on you, my sweet honey lover. Sportivo e che è un campione mondiale, direi, di livello di caratura mondiale, sia favorevole alle Olimpiadi. Non mi sorprende, anzi mi sorprenderei del contrario. Noi non siamo pregiudizialmente contrari alle Olimpiadi, attenzione, ma l'abbiamo detto prima, Roma parte da una situazione di debito di 14 miliardi e mezzo, appunto. 13 più 1 e mezzo. Io non ho sentito un romano uno chiedermi: Raggi, ma lei le fa le Olimpiadi? No, perché la voto in base a questo. Lei dice: non è una priorità. Mi chiedevano i romani: perché non passa l'auto? Perché l'autobus è in ritardo? Perché ci sono così tante buche? Perché l'immondizia le buche strada? Come le Totti dice: io voto per il candidato che è favorevole alle Olimpiadi. E perché si rende conto, come io immagino si rendano conto di tutti i romani, di quanto sia importante un appuntamento di questo genere. La Raggi ha definito criminale la scelta di fare le Olimpiadi. Io penso che sia criminale rinunciare a una straordinaria opportunità. Sono 70.000 posti di lavoro. Sono 170.000 posti di lavoro previsti. Bravo Simone dal Basso Vicentino, ora attivo il cervello e mi metto in contatto con 24 mattino, scrive, bravo, bravo, è qua, eh. Allora, grande Gianni, a lui soprattutto un grande applauso, che ci sta ascoltando da Londra, dove sono le 5:30 del mattino, ovviamente, visto che sono un'ora indietro, quindi grande Gianni, alle 5:30, eh? Bravo Gianni, che ci fai sveglio? Non sei ancora andato a dormire, questa. Un abbraccio ad Antonio, da Babato. Scriveteli bene, perché guarda che se sbagliate col T9 sui comuni, poi vengono fuori delle cose. Babato? Cosa può essere Babato? Un paese? No, dai, Eugenio, io continuo a mandarti saluti da Carrapipi, nobilissima città siciliana. Carrapipi, mi controlli questo? Carrapipi. Peter, mi vai a vedere Carrapipi? Scritta così, è Carrapipi. Va bene, c'è anche Domenico da Agazzano in provincia di Piacenza e dunque possiamo iniziare insieme anche a Marco da Gandino, mentre Carrapipi, scusa. Allora, sta cercando, Peter, sta cercando, Carrapipi. Come fa lo spelling? Carrapipi, provincia di Enna, ma certo, gran posto! E allora un nostro abbraccio arrivi a Carrapipi. Shine a light on you. Make every song the same. Salutiamo anche Limito di Pioltello, che è una frazione, mi risulta Limito. E Cosimo da Pistoia, e insomma tanti, Paola da Desio. Buongiorno! Tutti ci scrivono al 349... Che numero è? 349-238-6666. Oggi vi svegliamo con i Rolling Stones, Ah, attenzione, devo fare un annuncio. Settimana prossima io sono in ferie. Ve lo dico già subito, sono in ferie. Lo dico subito. Licenziato! Non credo, penso e spero di no. Però viva Paola La Rossa, ci scrive Silvio da Senago. Eccola qua la nostra Paoletta. Vabbè. Ciao Paoletta. Buongiorno Alino, buongiorno Grandalino. Facciamo questo giro d'Italia, eh? Hai mai fatto un giro a Carrapipi, tu in provincia di Enna? Carrapipi non lo conosco, la provincia di Enna però ci sono stata ed è, vabbè, la Sicilia è bella tutta, per cui, però Enna è proprio il cuore, eh? Enna è il cuore della Sicilia. Enna siamo proprio nel cuore della Sicilia, esatto. Quindi Carrapipi. Mandano anche un grande abbraccio a Paola Saluzzi da Laura da Castelfranco Emilia in provincia di Monte. Mi mancava la sigla, Lino, mi mancava al riconoscimento del mio lavoro. Allora, fino alle 6 di questa mattina è chiaro. Arriva anche un saluto, cara Paola, dalla spiaggia di Playa del Carmen in Messico. Se c'è la rossa, digli che la ospito io. Così ci... Ma questa potrebbe essere solo che la rossa. Io è felicissima di essere ospitata da te, ma non arriva da sola. Arrivo con un... Con dobbiamo andare sulla spiaggia del Messico, arrivo con un fracco di amici. Quindi, con Caterina, tra cui con anche Caterina. Alino. E esatto. Posso dirlo con 24 ore di ritardo, ma d'altronde è oggi, è il mercoledì, il nostro giorno. Sì. Ieri è stato il compleanno della Wondi Nazionale. Sì. No, non ieri, non è vero. Non ieri, ho sbagliato il compleanno. Sì. Oddio, che brutta figura, in onda, in diretta. Che orrore. No, era il primo giugno, era il primo giugno. Ho fatto gli auguri con 7 giorni di ritardo. Ma che figura. Quindi questo vuol dire che mercoledì scorso potevi fargli in diretta. Ma non importa. Mia mattinata si interrompe qui. Arrivederci. No. Me ne vado. No, anche perché, cara Paola, ti do la notizia. È una di quelle giornate misteriose in cui il nostro direttore è letteralmente scomparso. Luca, dobbiamo capire se, attenzione, nell'ordine, sia partito per un luogo senza lasciar detto nulla, come Cuba. O come la Croisette, o come, non so, inventiamoci qualcos'altro, senza lasciar detto nulla, emerga tra poco con la sua voce molto british a raccontarci che si trova in quel luogo perché narrare, deve dire, nel frattempo gli passa davanti Leonardo DiCaprio, Sono scusato, ero qui Pumpkin. Con Leonardo, devo... No, ma io sto pensando che ho fatto gli auguri a Wondi con 7 giorni di ritardo. No, è chiaro segno dell'inizio della fine. Guarda, ero talmente imbarazzato che volevo inventarmi che fosse ieri il compleanno di mia moglie, andava bene comunque. Però guarda, ho fatto una brutta figura in buona... Ma no, ma non è, ma sono altre le brutte figure, smettila. Va bene. Allora, saluti, arriva anche Jorge de Buenos Aires. Ci si va Jorge. Buenos Aires, non l'abbiamo mai vista. Sarebbe il caso di andare. Neanch'io sono mai stato a Buenos Aires. Però, cara Paoletta, sono le 6:38 minuti, siamo qui, io e te, insomma, siamo da soli, possiamo guardarci. E noi stiamo raccontando questa pagina politica. Oh, interessante. Oddio, questa pagina politica. Giorni, queste 21 pagine politiche sui giornali. Ogni giorno c'è quella da leggere, da studiare. Signori, siamo... Intanto stasera, mi permetto, confronto tra, voglio dire, Parisi e Sala. Ah, e, su Sky, giusto, fare un po' di... Assolutamente, e siamo, voglio dire, anche voi siete in attesa del vostro sindaco, come noi a Roma. Siamo in attesa del sindaco, solo che a Milano la partita si gioca su 5.000 voti, davvero, quando si suol dire siamo ai calci di rigore in finale di Champions League. Sì. Tanto utilizzano tutte queste metafore calcistiche, sì, non si capisce perché. Sì, hai notato come la metafora, ecco, lo diciamo anche perché. ai nostri ascoltatori, è andato fortissimo... Fortissimo lo sport. Il calcio. Fortissimo. Il calcio, sempre sì, così. Sì, 1-0, palla al centro. Adesso c'è il secondo tempo. I calci 0-0. Di rigore. Sì, esatto. Calci di rigore. No, veramente no. Renzi ha citato anche la maglia rosa, quindi ha citato anche il Giro d'Italia. È stato quello che si è spostato anche sul ciclismo. Nel frattempo, così vi faccio il racconto, sì. Davanti a casa mia una sì. famiglia di indiani. Attenzione. Che sono dei signori che sono venuti a Roma per vedere le bellezze della città eterna, sono infreddoliti, non riesco a capire alle 6:30 del mattino. Seduti su una lunga panchina, sono rimasti chiusi stanno fuori aspettando dall'albergo. Con aria tristissima o un taxi o qualcuno che li venga a prendere, non hanno valigie, ma hanno un'aria affranta. La scena è bellissima. E sono 8 persone. Adesso quasi scendo. Ma infatti, guarda, io non avevo il coraggio neanche di dirti questo, ma sarebbe bellissimo se tu scendessi e anche in un inglese, così parleranno inglese, no? E tu scambiassi qualche parola per noi, insomma. Portati sì, giù anche Caterina. Porta giù Caterina. Adesso, la verità, mi vergogno pure un po' a stare lì. Effettivamente, secondo me chiamano la polizia immediatamente. Esatto, e finisce poi che la notizia... Apri la finestra e parlagli da lì. Aspetta, ci provo, eh. Digli, do you have any problems? Madame? Forse è sbagliato il madame. Sì, no, però si sono girati tutti i tassisti, compenso guardarmi. Vedono una rossa che dalla finestra in vestaglia urla qualcosa. Ecco, nell'ordine, ecco, mi stanno guardando. Passa con un classico, excuse me. Salve, no, sto salutando i tassisti. Salve Paola Saluzzi. Non farmi, ecco, aspetta, salve. Salve. No, va bene, d'accordo. Va bene. Abbiamo fatto pure anche va bene, abbiamo fatto, non so, prima o poi uomini. Ci sarà una serenata da parte di qualcuno. Sì, allora però Paola, apriamo il Parlamento, perché sì. qui ti voglio chiedere questa cosa delle Olimpiadi. Io non ci volevo credere, ma anche le Olimpiadi finiscono nella campagna elettorale. Beh, sì, adesso certo. Sembra che chi sta con le Olimpiadi cioè Totti ha detto sono per le Olimpiadi e va bene, precisando sì. peraltro che non è una questione politica. Beh, tirandosi fuori dalla questione politica. Esatto. Se io ti devo dire come cittadina, io sono... Le vorrei, non so, la Roma corsa 20, delle 24. Bighe. La corsa delle Roma bighe. Roma 2024, assolutamente. Io penso che l'opportunità, e sto parlando fuori da qualsiasi considerazione politica, ma l'opportunità delle Olimpiadi sia... importantissima per Roma, importantissima, cioè basti pensare a Torino, insomma, sì. Olimpiadi di Torino, cosa è diventata Torino, Olimpiadi di Roma 2024, che opportunità e che possibilità oggi, che non sono quelle che potevamo avere ieri quando Mario Monti disse la sua. No, è vero, ti ricordi che disse no. proprio no col suo tono disse serafico no. alle Olimpiadi, sì, anche lui con stile British, c'è sempre Luca Dini che lo stiamo cercando, ma sì. insomma, al di là di questo, ovviamente le Olimpiadi rientreranno all'interno di questa campagna elettorale, perché è giusto che rientrino, perché Roma è anche questo, è anche l'Olimpiade della quale, secondo tanti, ha assolutamente bisogno. Sì. Quindi Capitan Totti ieri l'ha detto. Sì, la questione come sempre delle Olimpiadi è se poi siano economicamente sostenibili, questo poi è il punto fondamentale, cioè non è che... perché farle è bello, cioè tutti dicono ah che bello vedere le Olimpiadi, cioè, però ma poi... se vengono fatte con l'intenzione non di avere per 15 giorni solo grande sport all'interno di una città, di una capitale, ma di dotare quella capitale di servizi dei quali poi si continuerà a beneficiare e dell'immenso lavoro che l'Olimpiade porta con sé per essere fatta, per essere messa in piedi, io ti parlo sempre secondo me che Olimpiadi siano, perché è giusto. perché è giusto, va bene, insomma, le Olimpiadi, le Olimpiadi sì, perché è anche un'emozione. Io dico, boh, non lo so, cioè tanto si vedono comunque ogni 4 anni le Olimpiadi, e anche l'idea di volerla vedere nella propria città è bello, ma immagino già di salire su un tassi di Roma. A signore, le Olimpiadi qua me bloccano la via. No, vabbè, adesso non facciamo così. Adesso scendo giù e parlo col tassista, però. Io adesso scendo giù e faccio la diretta col tassista. Perché, La verità, sì, ma tanto, voglio dire, fermarsi e considerare che una cosa non si possa fare perché ci sono già tanti altri problemi è restare immobili. È chiaro. Però intanto di elezioni si parla moltissimo. Per esempio, vi faccio sentire Gigino De Magistris. Sapete che allora i giornali oggi raccontano delle cose straordinarie di retroscena della politica tra il PD e Verdini. Per esempio, il Corriere Repubblica dicono che Renzi è infuriato per l'alleanza con Verdini. Avrebbe incrociato Lotti, sottosegretario, dicendo: bei risultati questi dopo l'alleanza con Verdini, soprattutto a Napoli, dove Verdini ha appoggiato la candidata del PD che manco è andata al ballottaggio. Ma attenzione, perché c'è un retroscena sulla Stampa che invece è più subdolo. Dice che Renzi e Verdini hanno già siglato il nuovo patto, il patto del gatto pardo. Tutto cambi e niente cambi. Cioè litigheranno in pubblico, ma in realtà resterà tutto così. Vabbè, vince forse come dichiarazione Gigino De Magistris. Sentite cosa dice del PD a Napoli. Io lo dissi anche 5 anni fa, il Partito Democratico, se si vuole rinnovare, io posso essere uno strumento. Perciò dico, non mi voglio candidare a fare il commissario del Partito Democratico perché non mi piacciono i commissari e ho altri interessi per la città. Non so se avete capito, Gigino, ve lo faccio io il Partito Democratico. Sì, non si sa se sia una presa in giro o sia una cosa seria, Paolo. Vabbè, poi ieri c'era anche la conferenza stampa di Antonio Pasolino che si poteva seguire ad audio alto e ad audio basso perché l'uomo gesticolava con tanta passione. Vabbè, ma quella è lo spirito. Continuo a controllare la mia famiglia indiana nel frattempo. Sì. È uno spirito partenopeo, mosso con tanta di quell'energia. Certo, adesso sono i giorni della... Come dire, sono i giorni in cui si conta tutto, no? Si conta tutto. I pezzi, si contano gli errori, si cerca di risolverli anche. Poi si siglano patti, si dice che si siano siglati patti, perché poi è così. È anche molto forte il si dice e noi... Per esempio il calcio, visto che stasera su Sky li avete, Sala e Parisi, senti qua, Sala e Parisi, te li faccio sentire insieme. Noi siamo avanti, siamo 1-0, quindi vuol dire che uno l'ha imparato e uno l'abbiamo segnato. Sala era davanti alla porta, doveva soltanto tirare il rigore e segnarlo, il rigore l'abbiamo parato. Ma perché? Ma basta, Paola, fate una moratoria sul calcio. Ho tirato il rigore, ho sbagliato, ha preso il palo, 1-0. Ma adesso sarà calcio per un mese, tra da qui a pochissimo. Ho capito. Via, partano anche gli europei e quindi che ti dice che, guarda, io ti dico solo una cosa, che l'altra sera ero a casa di un carissimo amico che eravamo ad una cena bla bla bla, molto molto piacevole, molto gradevole, però sai quando arrivi si arriva tutti quanti un po' stanchi fine giornata, anche un po' ubriachi, dai, dicevo. No, ubriachi non tanto, non lo dico per fare no, il vino è quando buono, già all'antipasto sei agli sbadigli, no, eravamo, ma lo dichiaravamo, sì, il bello sì, era sì, questo, stanchi, si dichiarava stanchi. Che allora successo? Poi a un certo punto saliamo su, questo signore ha la casa su 2 piani, quindi noi siamo arrivati dal piano di sotto, è importante la precisazione, saliamo su e scopriamo che aveva comprato un biliardino quello vero, biliardino quello con gli omini blu e rossi. E vi siete risvegliati tutti? No, non noi, le donne, gli uomini. Certo. Cioè, sono passati da un, ma adesso sono c'è 11, il biliardino! Dobbiamo andare, vai, tira, no, io, certo, pupa. C'è il biliardino! Ma è meraviglioso, gli uomini, quando si parla di calcio, diventano un'altra cosa, sì, e questo sì, li sì. rende belli. Sì, anche, è uno dei due argomenti che li attira di più. Andiamo al traffico, uno dei due, sì. Il traffico, poi ne entriamo. Palo! Così, chi ha fatto palo? avere percentuali dei partiti di quanto prendono le elezioni vanno misurate sugli aventi diritto. Aventi diritto. Caro Milan, il problema è che delle piste ciclabili bellissime in centro, a chi abita in periferia con spaccio di droga, campi nomadi e dappertutto extracomunitari seduti per terra, non gliene frega niente, a differenza dei radical chic del centro. Mamma mia, quanti giornali inutili. Milan, debosciato di un debosciato, questa mattina ti ho battuto, sveglia ore 4:33 e adesso sono già al lavoro, prima di te, ciao! Visto che siamo in Europa e che serve capire e conoscere bene le lingue, vi invito a cominciare da questa piccola frase. Marmorstein und Heisebrecht, aber unser Leben ist. Alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Auguri Milan! Chiarissimo, non so, adesso vi traduce tutto Paola Saluzzi. Ma che è Roma città aperta? No, non lo so, sì, io non so parlare, tedesco, ma non lo so, magari ha detto qualcosa che diceva anche Hitler, non lo so. Sì, dal tono sembrava. Ma... Ah, no, attenzione. Noi siamo una redazione multilingue, poliglotta. La nostra Elisabetta Fusconi, che sa il tedesco perfettamente, ci dice che è un detto tedesco, un proverbio tedesco. Ora, quale sia questo detto e questo proverbio non lo possiamo svelare in questo momento, però la redazione poliglotta ti dice che questo è un detto tedesco, e tu lo dici pure sì senza dire la traduzione, sì, perché non ce l'ha lasciato scritto, ci ha detto ma sia un proverbio tedesco. Peggio, Lorenzo Nespoli dice me l'ha detto ieri, me l'ha tradotto ma non me lo ricordo, ma tu ti rendi conto come siamo combinati? È un proverbio sull'amore. Allora niente Roma città aperta. Però in questi tre minuti facciamo un appello, se qualcuno sa il tedesco e ha capito esattamente il proverbio, in attesa che la redazione di 24 Mattia si riattivi quest'oggi, ce lo faccia sapere. Lo chiederò. Oggi abbiamo una nostra bravissima stagista, Marta. È una ragazza di Porto Recanati. Sì, ho capito, mi ha stupito, si conosce perfettamente il tedesco. Non è all'ascolto, va bene, oggi glielo chiederò. Vado sul vi riascolto sul podcast. Mi faccio tre giorni. Ma nel frattempo sarà arrivata Elisabetta Fusconi, ce lo ridirà. Allora però se mi vuoi togliere tutte le soddisfazioni della vita, dillo. Tutto questo perché? Perché ho sbagliato il compleanno di Wondi. Ecco, esatto. Senti, ora ecco Marco ci dice fatelo risentire che forse lui sa il tedesco, ma qualcuno ci dice una canzone tedesca degli anni 70. Siamo al delirio, Tutto ciò io lancio sul, ovviamente su Twitter. Basta andare e twittare Alino Milan, sì. E sappiamo che quello è un grido di battaglia, di guerra e di felicità per tutti noi che siamo tuoi followers. Mm-hmm. Ma Luca Dini dove è finito? No, Luca Dini non si sa, è scomparso. Ieri mi dovevi sospettire perché gli ho mandato la mail e consueta e non mi ha risposto. E non ha risposto. E sarà forse in Nepal. In questi giorni qui a Bolzano il tedesco si sa bene, fai risentire il detto tedesco, non so, chiediamo in chiusura ce la facciamo. Intanto ti faccio sentire, cara Paola Saluzzi, c'è una novità che arriva dall'America, una donna per la prima volta è candidata alla presidenza americana. Sentila subito. Yes, tu sei contenta perché odi Trump, si sa è Hillary Clinton. Eccola qua. But we still have work to do, don't we? Abbiamo ancora del lavoro da fare, questo la capiamo noi anche. Allora, Hillary Clinton ormai ufficialmente... Hillary ce l'ha fatta, insomma. Attenzione, adesso bisognerà poi vedere che cosa tireranno fuori le elezioni. Non è esattamente il nuovo che avanza. Perché così. Quella che poi non è molto amata in America. Sì, non quanto potrebbe esserlo, non so come dire, non quanto potrebbe esserlo. Pur tuttavia, se pensiamo che la controproposta sia quella di avere Donald Trump presidente degli Stati Uniti, insomma, seguiremo questa battaglia.